Siamo a visionare il cinema su Radio Onda Rossa il giovedì dalle 14 alle 15. Anche quest'oggi cominciamo con un certo anticipo perché il giornale radio è finito prima. E per quanto riguarda la scaletta, tutte le informazioni le potete trovare sul sito internet della radio ondarossa.info, la voce trasmissioni visionari, sulla pagina Facebook della trasmissione visionari, e l'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info. Potete ascoltarci in diretta sugli 87.9 modulazione di frequenza, ma anche in streaming dal sito internet della radio, che è ondarossa.info. Sulla homepage c'è l'opzione ascolta la diretta. Tanti ospiti quest'oggi e cominciamo con il parlare di un documentario che ho avuto modo di vedere quest'estate al Clorofilla Film Festival, un documentario dedicato ad una delle realtà più felici della scena musicale italiana degli ultimi decenni, la banda Bardot. Ne parliamo con Umberto Chiaramonte, che è il produttore di questo documentario. Umberto, ci sei? Ciao a tutti, buongiorno. Benvenuto a Visionari su Radio Onda Rossa, eccoci qui. Grazie, un saluto a tutti. Allora, raccontiamo un po' questo progetto, di cosa si tratta, Umberto? Guarda, è un progetto che è nato più che altro dal rapporto tra Enriquez e Lucarelli, che sono venuti, che hanno tirato su un testo sulla storia e sui misteri della banda Bardot, assolutamente interessante. Il compito poi di un produttore è comunicarlo al meglio e produrlo, e quindi io ho fatto questo su un'idea molto carina, appunto, di Enriquez e Lucarelli. Allora, Enriquez, per chi ci ascolta magari è anche più giovane, della banda Bardot, lo storico leader, esatto, della banda Bardot. E Carlo Lucarelli è il noto scrittore. Ecco. Sì, penso lo conosciamo tutti, sì. Scrittore e personaggio televisivo, un po' il re del noir. Esatto. Senti Umberto, allora, come dicevo prima, la banda Bardot è una realtà che ormai... Un mistero. Esatto, avanti da decenni, è una realtà di assoluto meticciato, anche umano e musicale, e gira in continua tournée per l'Italia, in spazi a dimensione umana. Insomma, mi sembra proprio una realtà anomala e bella di questo panorama musicale italiano. Sì, è una band un po' atipica che sfugge i normali criteri di promozione discografica, e in tanti anni avrà fatto migliaia, cioè, di live, cioè con una cioè, promozione che gli esperti di marketing oggi chiamano one to one, che piano piano, cioè con gli anni, cresce sempre di più, perché gli spettatori ai loro concerti aumentano, cioè pure se loro non sono in televisione, non sono in radio e sfuggono appunto i canali promozionali tradizionali. Senti, come è cominciato il tuo rapporto con loro? Guarda, io è tanto cioè, che li conosco e soprattutto cioè, collaboro spesso con loro manager, che è Francesco Barbaro, che è un manager che su Roma si muove da molti anni. Lui sta lavorando in questo periodo sia con Carmen Consoli che con Irene Grandi, per esempio, e te considera che io collaboro da tanti anni col Festival di Giffoni, quindi li ho portati lì a suonare più volte, e lì è nato un rapporto anche di amicizia quasi, che mi ha permesso di conoscerli a fondo in tutte le sue sfaccettature. Sono un gruppo di molte persone, quindi ognuno con una sua anima, e quindi hanno molte sfumature da cogliere, e nel portare loro in televisione abbiamo anche fatto questo, insomma. Senti, i migliori aspetti della banda, tu che hai avuto modo di conoscerli in maniera più attenta, quali potrebbero essere secondo te? Sono probabilmente una delle pochissime band che partono dalla loro creatività per un fine live. C'è chi Io poi collaboro con tantissimi artisti che fanno tantissima attenzione all'arrangiamento del brano, come viene un brano su un CD, come il suono, la particolarità. Quindi c'è una creatività che è più per un utilizzo discografico, ecco. Loro hanno proprio un processo, cioè creativo, il cui fine ultimo è il concerto live. Quindi questa qua è la loro, cioè forza, che gli permette di dare una filosofia ai loro, cioè concerti, assolutamente unica e diversa dagli altri. Senti, nella lavorazione del documentario com'è andata? Quanto è durato il periodo di riprese e anche di interazione con loro? No, allora, il periodo di riprese è stato assolutamente breve, perché ci abbiamo messo un pomeriggio. Te considera che Lucarelli è un professionista, quindi quando è entrato in studio c'era già un testo che lui con Enriquez avevano già in qualche modo masticato, e quindi la produzione è stata una delle più semplici che io abbia mai fatto. Te considera che, invece, vi do una curiosità, io ho prodotto, cioè, tantissimi tornei e trasmissioni di poker, ecco, cioè quella cioè, trasmissione là fu prodotta in uno studio adibito al poker, e fino a poche ore prima c'era un magazine sul poker online. Senti, che tipo di distribuzione ha avuto e avrà il documentario dopo il festival, per esempio, del Clorofilla? Guarda, noi abbiamo fatto una scelta in linea con la volontà, appunto, sia di Enriquez che di Lucarelli. Lo abbiamo presentato in anteprima al Festival di Giffoni, e poi l'abbiamo mandato su Sky Arte. Ringrazio il direttore di Sky Arte, Cepisoni, che si è assolutamente appassionato al progetto, pur essendo la banda Bardon non una banda, cioè, mainstream, che ha quella forza, cioè, televisiva. E invece lui si è appassionato, l'ha mandato in onda su Sky Arte ormai, cioè, parecchie volte, e dopo il passaggio su Sky Arte stiamo andando con Enriquez, cioè, a darlo un po' a chi ce lo chiede, cioè chi qualsiasi veste, qualsiasi piccolo o grande che sia festival abbiano voglia di proiettarlo, noi glielo diamo senza alcun problema. Senti, a questo punto dacci riferimenti internet per saperne di più. E guarda, la casa di produzione è Level 33, quindi il sito internet www.level33.tv, ma più diretti ci sono sia i Twitter che Facebook della banda Bardò. Benissimo. I veri cioè proprietari, i veri produttori, per così dire, sono loro, insomma. Esatto. Bene, Umberto, io ti ringrazio, e un in bocca al lupo per questo BB, un mistero italiano. A risentirci presto. Ti ringrazio molto io. Un saluto a tutti e buon pomeriggio. Ciao. Ciao, grazie. Umberto Chiaramonte, produttore del documentario BB, un mistero italiano. BB chiaramente sta per Banda Bardò. Uno schiaffo a me, io sono un pubblico ufficiale, vi dichiaro tutti in arresto. Ma qui se c'è un ufficiale sono io, in guerra ero tenente. E io sono nulla tenente. Ancora non capisco come hai fatto a intuire che Dell non mentiva. Era un libro aperto, Wesley. Quell'uomo stava vedendo la morte in faccia e nessuno mente in quella situazione. Poi però, imitando Geronimo, mi hai innervosito e ho ignorato il mio istinto. Mai ignorare il proprio istinto. Io non l'ho fatto, ho notato la tua occhiata. Cosa? Quale occhiata? Tu fai solo un tipo d'occhiata, l'hai fatta, ho pensato che avessi finito e l'ho liquidato. Non avevo finito, ero stufo di sentirlo piagnucolare. E tu non hai liquidato nessuno, gli hai fatto lo scalpo. Gesù, per poco non vomitavo, te l'ho detto. Che cazzo l'hai raccontata a fare la storia degli indiani? Ma che ti dice il cervello, Wesley? Se ne raccontavo una sul baseball, tu prendevi una mazza e lo facevi fuori a bastonate? Perché avete abbandonato le vostre case. Perché voi le avete distrutte, spesso con dentro i loro abitanti. Vi avevamo ordinato di ritirarvi nelle riserve. Nelle riserve il mio popolo muore di fame. Ci avete promesso lavoro, scuole per i nostri figli, ospedali, in cambio di quel che ci avete rubato. Questa non è una risposta. Bene, siamo in collegamento con Claudia Tosi, regista del documentario The Perfect Circle, che abbiamo visto un po' in giro per i festival italiani. A questo punto la curiosità c'era per sentirla su queste frequenze che si curano molto del documentario. Claudia, benvenuta a Visionari su Radio Onda Rossa. Ciao, grazie mille di avermi invitata, ciao a tutti. Allora, raccontiamo a chi ci ascolta di cosa si tratta, cos'è questo Perfect Circle? È un film documentario che, diciamo, sostanzialmente ci dice che morire non è esattamente desiderabile, però in qualche modo, se ce la raccontiamo un po', con un po' di aiuto, riusciamo anche a conviverci. È un film che coinvolge due protagonisti, uno dei quali trascina dentro anche me nella storia, per cui a un certo punto è abbastanza difficile capire chi sta osservando chi e chi sta dirigendo cosa. E quel viaggio non lo fanno solo loro, ma a un certo punto sono costretta a farlo pure io. E alla fine direi abbiamo un lieto fine. Senti, com'è cominciato tutto? Com'è venuta l'idea? Diciamo che io ho avuto un'esperienza personale con mia madre che mi è abbastanza segnata, legata alla sua malattia. È un'esperienza che però si è risolta in modo positivo, nel senso che da quell'esperienza lì ne sono uscita con le ossa un po' rotte, però con una consapevolezza nuova e soprattutto con la certezza che di fronte alla morte forse la paura non era più in grado di bloccarmi. E l'idea era quella di fare un film in cui avrei potuto raccontare questo: e la paura è terribile, ti blocca, però si riesce a superarla quando rimani lì, la guardi in faccia e cerchi di andare avanti con gli strumenti che hai. Per questo motivo poi ho pensato di fare un film, ho trovato un luogo in cui mi sembrava possibile raccontare una storia del genere, ed è questo hospice che non è tanto lontano da casa mia, un hospice per malati in fase avanzata di malattia, malati oncologici. Lì ho conosciuto i miei protagonisti, uno dei quali in realtà non voleva assolutamente essere protagonista, ma poi noi ormai eravamo diventati amici e piuttosto che e non avermi attorno e ha accettato di farsi riprendere, così almeno potevamo andare avanti con la nostra amicizia. E lì effettivamente sono riuscita a raccontare questa avventura abbastanza tremenda, che è trovarsi faccia a faccia con la cosa che detestiamo di più. Senti, quanto è durata questa vicinanza e questo periodo di riprese? Guarda, è la cosa che è durata meno. In realtà il film è stato girato in 11 giorni, di cui 8 con i protagonisti e 3 senza i protagonisti. E in realtà invece sono stati 2 anni di sviluppo del progetto, e l'ho sviluppato un po' a livello internazionale, sono stata a vari training program, vari pitching forum, quindi ci sono stati 2 anni in cui l'ho pensato, e una settimana di riprese, 8 giorni di riprese, e poi sono stata 1 anno e mezzo a riguardarmi il materiale e a capire che storia potessi raccontare, perché di fronte a una vicenda del genere si fa fatica a costruire la storia, è più facile lasciarsi andare semplicemente agli eventi, però l'approccio doveva essere drammaturgicamente un po' più complesso di così. E dopo 1 anno e mezzo ho capito che cosa sarei riuscita a raccontare con quel materiale, così poi mi sono messa in montaggio e in 1 annetto sono riuscita a chiudere il montaggio. Senti, qual è il rapporto delle persone direttamente coinvolte con la malattia e soprattutto di chi sta loro intorno? Allora, noi parliamo di una realtà privilegiata. Quando parliamo di hospice, parliamo di un luogo in cui le persone che entrano incontrano personale preparato, che quindi li aiuta ad affrontare lo shock, che è sapere che non avremo più tempo davanti a noi, e quindi in qualche modo tramite loro noi riusciamo a percorrere quella strada lì verso l'accettazione, diciamo, con un salvagente. quindi non parliamo di una realtà che possiamo incontrare tutti i giorni. Sì. Queste persone, una in particolare, la donna, era ampiamente preparata, lei era in fase di accettazione piena, che non vuol dire che ci si senta proprio agio con la propria morte, però almeno si riesce un pochino a parare, si riescono a parare i colpi della depressione, della rabbia, dello shock, il rifiuto, mentre invece l'altro protagonista, Ivano, era in piena fase di rabbia, quindi faceva molta fatica a elaborare il fatto che lui se ne sarebbe andato, lui cercava di cacciare da sé quell'idea lì. E il motivo per cui questo protagonista sceglie me invece dei medici come compagna di viaggio ti sottolinea questo aspetto. Io non ero un medico, quindi quando lui stava con me io non gli ricordavo che lui stava per morire, mentre invece i medici ogni volta per lui erano l'immagine della malattia che stava prendendo il sopravvento. Quindi da un lato abbiamo una protagonista abbastanza pacificata, l'altro niente affatto. I familiari, avendo anche un background culturale molto diverso, avevano un approccio diverso. I familiari di Maris erano pronti, erano aperti rispetto a quello che sarebbe accaduto. La moglie di Ivano era pronta pure lei, ma per motivi diversi, perché è una donna di campagna, una donna molto pratica, e morire si deve morire tutti, l'importante era morire bene. Quindi per strade diverse sono arrivati tutti a una conclusione un po' pacificata, ma direi grazie soprattutto al personale che hanno trovato all'interno di questa struttura. Senti, il tuo lavoro è stato in festival importanti italiani, volevo sapere che futuro avrà per esempio per la distribuzione o passaggi televisivi. Allora, purtroppo il film non è ancora finito. Cioè, io sono andata molto volentieri a Firenze e a Trieste, che sono festival che adoro, anche perché volevo testare un po' l'impatto del film con il pubblico, ma non facendo un test screening. Cioè, volevo trovarmi in una situazione emozionante anche per me, per capire se il film funzionava. Ho capito che ci sono alcune cose da sistemare, quindi le sto sistemando ora. Direi che a metà aprile il film è finito, dopodiché posso cominciare a pensare a una circuitazione internazionale di festival, e lì vedremo da aprile in poi chi avrà voglia di prendere il film. E a livello di distribuzione nelle sale, non ho ancora un distributore, però una delle idee era quella di attingere al grande bacino, purtroppo, di possibili persone interessate per questioni personali, e provare a lavorare sulla costruzione di un audience di questo tipo per portare il film nelle sale, anche magari costruendo degli eventi. Cioè, l'idea per me di incontrare le persone, magari portare con me qualcuno dell'hospice, rimane un'idea che mi interessa molto, perché è vero, il film è solamente un film, però in realtà stiamo raccontando un mondo che è poco conosciuto, e c'è molta gente là fuori che soffre inutilmente quando, attraverso un percorso nelle cure palliative, da un punto di vista psicologico, spirituale e fisico, potrebbe trovare moltissimo sollievo. Quindi stiamo ancora un po' calibrando la distribuzione sia a livello nazionale che internazionale. Senti, per avere maggiori informazioni in rete dove si può cercare? Stiamo lavorando al sito, quindi lo metteremo in onda online presto. Io direi www.movimenta.net per il momento. Benissimo. E lì metteremo un po' di notizie, aggiorneremo un po' i movimenti del film. Adesso abbiamo una proiezione a Reggio Emilia verso la fine di marzo, e così vediamo un po' come reagisce quel tipo di pubblico, che è completamente diverso da quello dei festival, e poi cerchiamo di iniziare un percorso nelle varie città italiane. Benissimo, allora magari avremo modo di riparlarne in occasione della distribuzione. Molto volentieri. Claudia, io ti abbraccio e a risentirci presto. Grazie mille, un bacione. Ciao. Claudia Tosi, regista del documentario The Perfect Circle. Regola, niente fughe, niente soffiate. Regole fondamentali. Ti dà un senso di potere, eh? Non del genere che hanno gli sbirri. Che Dio ci aiuti, che ci scampi dal farci ammanettare in pubblico, ci vestiamo meglio di loro e non ce lo perdonano, è la loro vendetta. Giusto? E sono quelli che dovrebbero dare il buon esempio. Vogliono rendermi diverso da ciò che è la mia natura. Un mediocre. Oh! È pesante, che c'è dentro, mattoni? È la testa di mio marito. marito. La porto con me ovunque. Ah, solo la testa? Il resto l'ho lasciato a casa. Le 35 ore. Va bene, d'accordo. Ma per fare che cosa nelle ore libere? Per guardare la televisione e giocare al Super Enalotto, eh? E il mercoledì guardare gli incontri di Coppa. Ma fate schifo. Bene, in collegamento per parlare dell'omaggio, il tributo al regista Wim Wenders con Angelo Draicchio della Ripley's Film per parlare dell'uscita digitale restaurata del Cielo sopra Berlino, purtroppo solo per la giornata di ieri, e del film Paris, Texas per mercoledì della prossima settimana, 25 febbraio. Angelo, benvenuto a Visionari su Radio Onda Rossa. Ci sei? Eccoci. Sì, sì, ci sono. Intanto ho dedicato al Cielo sopra Berlino un fotogramma, la copertina della nostra trasmissione di questa settimana, è tra l'altro il mio preferito, il mio film preferito in assoluto, devo dire. Fa piacere, è uno dei film di Wenders più amati al mondo, credo. Sì. Insieme a Paris, Texas, quello che gli ha dato più, diciamo, più forza e vigore rispetto a una serie di temi poetici che sono stati per noi molto importanti. Sì. 87 sembra un anno così lontano e il film è così forte ancora, molto sì, potente. Tra l'altro una fondamentale collaborazione con Peter Handke, che è lo scrittore Peter Handke, anche lui è regista e cinematografico. Ero a Berlino per la premiazione a Wenders per l'Orso d'Oro e Wenders appunto ha parlato del rapporto con Handke, che quanto sia stato importante lo scambio che c'è stato sin dall'inizio tra lui e lo scrittore amico, che gli ha permesso appunto di buttare giù idee, iniziare un percorso cinematografico con La paura del portiere prima del calcio di rigore e poi in avanti. E, diciamo che Handke in questo caso è stato, come lo stesso Wenders diceva nel 87 presentando il film in giro per l'Italia, importantissimo perché riuscì a risolvere il problema dei dialoghi degli angeli, che era un tema abbastanza importante per i film e su cui Wenders non riusciva a venirne a capo, e anche se appunto la sceneggiatura del film non è firmata da Handke, che tutti i dialoghi sono stati scritti appositamente in tempi molto stretti, mm-hmm, mentre veniva girato il film, ed è una cosa molto molto bella perché poi la versione anche italiana, grazie al lavoro di adattamento che è stata fatta dalla germanista Cinzia Romani, che ha curato l'edizione italiana, ma soprattutto la versione originale è molto forte, questo linguaggio diciamo è qualcosa che ci porta in alto, non a livello degli angeli, ma qualcosa di vicino. Sì, sì. Per chi ci ascolta, diamo alcuni elementi su Paris, Texas, che sarà in sala mercoledì prossimo? Sarà in sala mercoledì prossimo e un altro film fondamentale della filmografia di Wenders è l'incontro con l'America vera, già accarezzata in altri film, da Alice nelle città, poi anche nell'Amico americano, l'incontro con Shepard, un motivo di riflessione molto forte sul rapporto tra padre e figlio, tra uomo e donna, ed è una poesia per gli occhi, la fotografia di Robbie Mueller è stupenda. La capacità di questo grande direttore della fotografia di inventare un mondo visivo è una grande poetica lasciata alla libertà di costruire, come diceva Wenders, i dialoghi quasi giorno per giorno, cioè partire con un canovaccio e man mano che si gira riuscire a far emergere una storia, dialoghi e quant'altro. Film con Natasha Kinski e Eddie Stanton ed è qualcosa che andava riportato nelle sale, non soltanto fatto vedere in DVD. Il piacere oggi di poter far rivedere questi film è qualcosa di molto molto forte, perché i film vanno visti in sala, vanno visti con la capacità che ha il cinema di incantare. Sì. Paris, Texas ha questa grande capacità di incantare, come il Cielo sopra Berlino, e ha una colonna sonora potentissima affidata a Ray Cooder. Esatto. Angelo, per quanto riguarda questa operazione, cioè il restauro digitale e anche l'uscita del mercoledì, un'uscita secca, ci racconti un po' di questo progetto? Il progetto nasce dall'occasione dell'Osso d'Oro a Berlino e dal fatto che la fondazione Wim Wenders, che è stata creata da pochi mesi, ha rimasterizzato gran parte, ha restaurato digitalmente gran parte delle opere di Wim, e questo è stato lo spunto, diciamo che è un tributo a Wenders, cioè un omaggio che si trasforma nel far vedere i suoi film. Cioè, qual è la cosa più bella per un regista che vedere ritornare in sala anche solo per un giorno in 140 schermi un film che ha amato, diretto e realizzato con molta fatica e che gli ha dato grandi soddisfazioni. Mm-hmm. Quindi per noi era implicito poter costruire questa operazione, soprattutto appunto per rendere questo omaggio, che continuerà attraverso un altro paio di opere di Wenders nel corso del 2015. Senti, perché questa scelta del mercoledì come data unica? Beh, questa è una scelta, diciamo, tra virgolette commerciale. Gli spazi cinematografici non sono, diciamo, a differenza di paesi come la Francia, così facili. Costruire un evento porta poi a costruire una strategia, la possibilità di poter avere una forte presenza del film e quindi impattare anche sull'effetto promozionale e sulla possibilità per chi va al cinema di vederlo in sala in quel preciso giorno, ma il film comunque continua a girare. Cioè, questo è l'evento della giornata, come fu fatto per Hannah Arendt all'incirca un anno fa. Sì. E come avverrà per Die Andere Heimat, l'ultimo Heimat, che è di prossima uscita a marzo di quest'anno. Oh, per chi volesse saperne di più su queste uscite digitali restaurate, ci lasci dei riferimenti internet? Beh, si può andare sul sito dell'Anexo Digital, che è il nostro partner in questa operazione. Senza di loro appunto questa operazione non avrebbe probabilmente preso vita, e quindi ci sono tutte le informazioni, o sul Facebook di Replays on Video, Replays Film, dove ci sono tutte le informazioni e dove ci sono anche contenuti legati all'opera e alle ultime novità rispetto alle attività della fondazione e di Wenders stesso. Tra l'altro un simpatico trailer che Wenders ha montato appositamente per la retrospettiva che gli è stata dedicata in omaggio alla Berlinale. Benissimo. Angelo, io ti ringrazio, un abbraccio. Ringrazio a voi dell'ospitalità e andiamo al cinema. Andiamo al cinema e ci risentiamo presto. Grazie, buona Ciao, giornata. Angelo, anche a te. Angelo Draicchio di Ripley's Film sul tributo al regista Wim Wenders, con l'uscita digitale restaurata ieri del Cielo sopra Berlino, ieri 18 febbraio, e per mercoledì della prossima settimana 25 febbraio, Paris, Texas. Come? Perché non ci vuoi arrestare? Per quale motivo? Per insulti ad un agente, vigliacco. Ipocrita. Ah no, ora esagerate, eh? Vigliacco! Il sardone! Ehi, voi dite un po', che state facendo? Ti insegneremo a rispettare la polizia. No, non vi preoccupate, sono degli amici. Giochiamo a carte tutte le sere, scherzavano. Non scherzavamo affatto. La sera del 28 marzo del 1994, quando vinse la destra, per la prima volta in vita mia mi feci una canna. Vai in terapia! Sono stato chiaro? Sì, sei stato chiaro! E ora molla il gilet che si sgualcisce? Eccoci con Mattia Della Puppa di Adler Entertainment sulla distribuzione del film Mordecai, in uscita in sala oggi, giovedì 19 febbraio. Mattia, benvenuto a Visionari su Radio Onda Rossa. Ciao! Chiaramente, per chi ci ascolta, diamo subito delle indicazioni di trama di Mordecai, Mattia. Sì, Mordecai, innanzitutto credo che convenga dire che è tratto da una serie di libri. Esatto. E quindi è un personaggio letterario, e Johnny Depp è il protagonista del film, e è un mercante d'arte, diciamo così. È un mercante d'arte molto particolare, come tutti i personaggi che interpreta Johnny Depp, quindi ha una vena ironica, in realtà è sostanzialmente sulla bancarotta e nonostante questo continua a mantenere una vita fatta di lusso, almeno apparente da questo punto di vista, ed è sulle tracce di un misterioso dipinto che sembra, pare che nasconda il codice necessario per poter risalire a un account bancario svizzero che nasconde l'intero oro e l'intero tesoro dei nazisti. Ovviamente, come in tutti, o come nella maggior parte dei film di Johnny Depp, il personaggio che interpreta ha una vena molto comica, e quindi insomma è un'avventura molto molto divertente. Oh, Mattia, un film di puro intrattenimento prodotto dallo stesso protagonista Johnny Depp, che quindi ha modo di gigioneggiare come ogni tanto gli accade in alcuni film, un tema, quello del mercato dell'arte, insomma, diversi ingredienti. Io non ho avuto modo di vedere l'anteprima stampa, però mi incuriosiva tutto questo. Non quindi... ti abbiamo invitato, Fede? No, non mi era arrivato l'invito. Però a questo punto la curiosità c'era. Mi permetto solo di dire una cosa in relazione a quello che dicevi della produzione di Johnny Depp. Johnny Depp è effettivamente uno dei produttori, e oltre a tutto il resto del cast, che è un cast hollywoodiano di primissimo livello, c'è Gwyneth Paltrow, c'è Ewan McGregor, c'è Olivia Munn, una serie di persone, ma la parte interessante, secondo me una delle parti interessanti, è che il regista, che è David Koepp, in realtà è un regista, ma è più famoso forse per i tuoi ascoltatori come sceneggiatore. Perché è uno degli sceneggiatori più importanti di Hollywood, è quello che sta dietro per esempio a grandi film di successo come Spider-Man, piuttosto che altri di questi grandi successi come il Di Preso dell'Arca Perduta, se non ricordo male, o comunque Indiana Jones. Senti Mattia, ecco una curiosità, visto che è un tema ricorrente in alcuni film dell'ultimo periodo, penso per esempio a Big Guys, ecco quello del mercato dell'arte, come è approcciato il tema nel film? Come può essere approcciato in una commedia con Johnny Depp, quindi c'è sempre una fortissima vena ironica, e non voglio svelare troppo perché tutta questa parte, in realtà c'è tutta una parte che gioca sul mondo delle aste d'arte, e quindi diciamo che è rappresentato in maniera fedele ma non documentaristica, ecco, diciamo così. Quindi esiste tutto questo tema del collezionismo d'arte, appunto delle case d'asta, delle persone che cercano di fare affari da questo punto di vista, ma in realtà è tutto in chiave molto molto molto divertente. Anche qui non c'è un vero e proprio intento di rappresentazione fedele, diciamo così, ecco Federico. Leggevo stamattina di una critica al film rispetto all'atteggiamento statunitense nei confronti della cultura anglosassone di riferimento, ed è un approccio, diciamo, una presa in giro che ad alcuni ha dato fastidio. Sì, cioè, allora, ovviamente il film è una produzione americana. Sì. Ed essendo una produzione americana gioca molto, anche perché poi il personaggio è un personaggio inglese, e quindi ha questa sorta di stereotipo, sì, esatto, da, diciamo, del lord inglese, e che soprattutto al pubblico americano magari può essere sembrata un po' stucchevole, ecco, da questo punto di vista. Però nel complesso, appunto, lavorando in quest'ottica di stereotipi, non mi stupisce che gli americani, che già, come dire, tendono ad essere abbastanza egocentrici dal punto di vista della rappresentazione di loro stessi, ecco, per usare un lungo giro di parole, credo che renderò bene quello che voglio dire, e quindi non mi stupisce che, insomma, non essendo loro particolarmente esterofili, non abbiano amato l'ironia British del personaggio che interpreta Johnny Depp, diciamo, delle punzecchiature di un'ex colonia, esattamente. il loro passato in qualche modo ogni tanto tende a ritornare, a volte in maniera un po' più complicata da gestire, in altre volte, come nell'intrattenimento, forse anche in maniera un po' più leggera, dai. Senti, per come l'hai visto tu, anche rispetto al personaggio di Johnny Depp, che pensiero ne hai del film? No, beh, il film è veramente divertente, cioè il film è molto molto divertente. A me il film è piaciuto, tra l'altro, vabbè, mi è piaciuto fin dal primo momento in cui l'ho visto ovviamente molto tempo prima rispetto all'uscita in sala, però è un film che mi ha profondamente divertito fin dalla prima volta che l'ho visto, l'ho trovato, e a prescindere non voglio avere nessun tipo di vis polemica, però secondo me se il film è davvero spassoso, cioè ha dei momenti di pura commedia, tanta azione dentro, e mi ha veramente divertito vederlo. E spero che divertirà anche le persone che lo vedranno al cinema. Da oggi in sala in quante copie? Sono 2,80. No, cifra considerevole. Ci sarà modo di vederlo. Mattia, io ti ringrazio e a risentirci alla prossima. Grazie a te, Federico. Ciao. Un saluto a tutti. Buon pomeriggio, ciao. Ciao. Mattia Della Puppa di Adler Entertainment sulla distribuzione del film Mordecai, in uscita in sala oggi giovedì 19 febbraio. Si è messa addosso quella? Perché era uniforme? Perché adesso lavoro per lo sceriffo. Insomma, sei un poliziotto. Sì, perché? Interessante, congratulazioni. Io sono ancora una teppista e tu adesso sei la legge. Che sincronia. Mi sparerò alla tempo mentre sono in onda. Nel bel mezzo del telegiornale delle 7. Il tuo indice di gradimento andrà alle stelle, giuro. In collegamento con Giulio Barbato, uno degli organizzatori del Retina Video Art Festival al Museo di Arte Contemporanea Macro Factory qui a Roma il 21 e 22 febbraio prossimi, quindi sabato e domenica. Giulio, benvenuto a Visionari su Radio Onda Rossa. Ciao, grazie a tutti. Non sei da solo poi? Non sono da solo, sono con Dalila D'Amico, dottoranda in musica e spettacolo all'Università della Sapienza. Allora, ciao, come stai? Molto bene. Allora, come nasce questo festival, Giulio? Beh, Retina Festival nasce circa 6 mesi fa da un'idea di fare un festival di videoarte a Roma. E quindi ci siamo messi subito al lavoro e abbiamo raccolto da tutto il mondo, da artisti provenienti da tutto il mondo, opere di videoarte, e ecco, cercando poi di condensarle sabato e domenica, per l'evento di sabato e domenica. Allora, la videoarte non è sicuramente, non è facile per quanto riguarda l'approccio, però sempre più i festival e le rassegne se ne stanno occupando. Voi quanti ospiti avrete? Quante opere presenterete? Noi presenteremo le opere di 21 artisti, sì, provenienti da tutto il mondo. Queste 21 opere saranno proiettate, mentre poi ci sarà anche una parte di live performing video, quindi opere audiovisive che performeranno dal vivo fondamentalmente, e in più un'installazione interattiva con la tecnologia Kinect, che poi diciamo lasciamo un po' di suspense. Allora, non so chi vuole rispondere, comunque volevo chiederti anche qual è stato il criterio di scelta e se c'è un tratto comune per la scelta di questi 21 artisti. Bene, rispondo io. Noi con Retina ci siamo posti una domanda, che poi è la stessa domanda che si pone il seminario, cioè dove sta andando la videoarte con l'introduzione del digitale. Per cui lanciando questa domanda nei diversi continenti cercavamo di trovare appunto una risposta che venisse dagli stessi artisti, dagli stessi protagonisti della video art oggi. E dunque il criterio è stato questo, un libero punto di osservazione per comprendere dove ci muoviamo, quali sono le tecniche e quali sono le tematiche. Noi abbiamo rintracciato dei tratti comuni tra queste opere, tra queste 21 opere, suddividendole infatti in 4 tematiche che corrispondono a 4 differenti stanze dove verranno visionati i video. E le tematiche sono quella del corpo, cioè del video che indaga appunto la sensorialità del corpo, quella della percezione, quindi una realtà trasformata che, da questi artisti che tende a sollecitare la percezione dello spettatore. Poi ci sarà la tematica dei video astratti e infine la tematica della memoria, cioè di tutti quegli artisti che indagano il fenomeno della temporalità, sia intesa come ricordo che proprio come elemento tecnico della durata del rallenti o dell'accelerazione di immagini. Oh, ci sono dei paesi in particolare dove la videoarte è più in fermento? E poi volevo chiedervi anche se, in base anche alla ricerca, ai criteri che vi siete dati, dove sta andando la videoarte? Se ci siano paesi in cui c'è più fermento, non credo, nel senso è un fenomeno che è praticato dagli artisti in tutto il mondo più o meno con lo stesso interesse, la stessa partecipazione. Sì. Dove sta andando la videoarte? Noi cercheremo di farlo dire agli studiosi che da tempo si interrogano proprio sul fenomeno delle arti elettroniche e quelle digitali. Infatti vogliamo ricordare che alle 19 Retina inaugura proprio con questo seminario che ospita Valentina Valentini, che è una delle più attente osservatrici di arti digitali ed elettroniche da anni, Milo Adami, che è un dottorando di ricerca in musica e spettacolo, quindi mio collega, e che sta proprio effettuando una ricerca su cosa è cambiato dopo gli anni 90, quindi con l'introduzione del digitale nella videoarte e dove appunto sta andando, e infine Raul Brisolia, che è un docente di cinema. Oh, come è strutturata questa maratona di due giorni? Allora, dunque, nel primo giorno di sabato ci sarà il seminario che Dalila ricordava alle 7 di sera, alle 19, sì. Dal titolo Il Post Video. Dopodiché a seguire ci sarà la proiezione di un video di Rube Candy, Nine June Park. E a seguire sarà disponibile, possibile visitare le quattro sale cinema allestite. E infine alle 22 ci sarà la performance audio video di Martuk Sem e l'Ambidio Source, una performance live di musica elettronica e video, dove musica e video interagiranno in tempo reale. Bene, bene. I riferimenti domenica, questo fino alle 2 di notte, mentre la domenica apriremo sempre alle 6, alle 18 e finirà a mezzanotte. Ci sarà la possibilità di visitare le quattro sale come esposizione. I riferimenti internet per la programmazione? www.retinafestival.net. Sì. E per quanto riguarda il sito web e Retina Festival, la pagina su Facebook. Benissimo, allora un in bocca al lupo e risentirci presto. Vi ringraziamo, ci vediamo sabato, ok, sabato e domenica. Grazie, ciao. Giulio Barbato, uno degli organizzatori del Retina Video Art Festival, museo di arte contemporanea al Macro Factory qui a Roma, per le giornate appunto del 21 e 22 febbraio. Oggi, 8 febbraio 1600, anno del giubileo, diciamo, pronunziamo, decretiamo, sentenziamo te, Giordano Bruno, eretico, impenitente, pertinace e ostinato, e perciò incorso in tutte le censure ecclesiastiche e pene imposte dai sacri canoni, e come tale te degradiamo verbalmente da tutti gli ordini maggiori e minori, e ti scacciamo dal foro nostro ecclesiastico e dalla nostra santa immacolata chiesa, della cui misericordia ti sei reso indegno. Di più, condanniamo e proibiamo tutti i tuoi libri escritti come eretici ed erronei, ordinando che siano pubblicamente distrutti e bruciati nella piazza di San Pietro innanzi alla grande scalinata, e che pertanto essi siano posti nell'indice dei libri proibiti. Ti consegniamo il governatore di Roma perché tu subisca le debite pene. Eccoci con Maria Pecchioli, regista del documentario Lei disse sì. Maria, benvenuta a Visionari su Radio Onda Rossa. Ciao, buongiorno a tutti, ciao. Come va? Tutto bene, benissimo. Tutto bene. Direi. Allora, per chi è all'ascolto, cos'è Lei disse sì? Allora, Lei disse sì è un documentario, un film documentario che nasce in realtà come, diciamo, un progetto cross mediale che vede prima la produzione di un videoblog e poi appunto il film documentario, e che racconta sia il videoblog che poi il film la storia di due donne, di Ingrid e Lorenza, che decidono di sposarsi, sono entrambe italiane, decidono di sposarsi ovviamente fra di loro dopo 7 anni di convivenza, però in Italia non esiste una legge, e allora intraprendono nel film, diciamo, che si racconta il loro viaggio in Svezia verso appunto il coronamento di questo sogno, accompagnate da amici, familiari in parte presenti, in parte assenti. Diciamo che come tutti i viaggi ci sono, no, gli aiutanti e invece le difficoltà, insomma, da superare e varie ed eventuali che non vi racconterò adesso. Senti, allora ci siamo occupati nel tempo di diversi documentari anche sui matrimoni sia gay che lesbo, e una curiosità e una domanda che mi viene sempre spontanea è che, per esempio, rispetto a tutto il movimento di contestazione degli anni 70, quindi tutta la critica alla famiglia e tutto quello che comporta, da strumento, cioè un'istituzione che è stato strumento di controllo da parte del potere ecclesiastico in un paese così cattolico come il nostro, come può diventare strumento di liberazione il matrimonio? Adesso io non sono io che ho fatto la scelta del matrimonio, certo. Diciamo, però per l'idea che mi sono formata portando avanti questo film e portando avanti, diciamo, diverse discussioni su questo tema, io credo che qui non si tratta tanto ed esclusivamente del matrimonio, ma qui si tratta del matrimonio come realtà, no, legislativa, che dichiara a tutti gli effetti l'eguaglianza fra le persone, sì. Per cui il fatto che le coppie omosessuali vedano in qualche modo vedano passare una legge in cui anche loro possono scegliere o non scegliere evidentemente di sposarsi, significa innanzitutto una conquista in termini di diritti di, sì, eguaglianza, di diritti civili. Sì, sì, sì. Senti, che tipo di riscontri ha avuto nelle varie proiezioni che avete effettuato? Allora, il riscontro in sala è per noi sempre un momento di grande prova, ma nel senso proprio emotivo del termine, molto coinvolgente, perché il nostro film non è un film di denuncia, non è un film di inchiesta, ma è il racconto di un accadimento, per come effettivamente si è verificato, e questo in qualche modo crea molta complicità con il pubblico in sala. Mm. E quindi ogni volta per noi è veramente una grande sorpresa rispetto ai contenuti, alle domande, alle riflessioni che poi nascono nel dibattito che di solito teniamo successivamente al film, ed è un momento ulteriore di scambio, di condivisione a tutti gli effetti, per cui devo dire che non ci sono state delle note di contrarietà rispetto a quello che raccontiamo, perché raccontando la vita di due persone in qualche modo, come posso dire, spostiamo l'attenzione sulla parte emotiva, diciamo, no? del tema. Senti, volevo chiederti anche il periodo di riprese, ti ha visto, insomma, presente in un ampio spazio temporale della loro vita, e che esperienza è stata? Allora, sì, in particolare il videoblog è partito, diciamo, le prime riprese le abbiamo fatte nell'ottobre 2012, quando Ingrid e Lorenzo hanno annunciato, diciamo, a tutti gli amici, fra cui anche io, che avevano l'intenzione di sposarsi in Svezia, e da lì loro hanno abbracciato la mia proposta di raccontare le tappe che le avrebbero portate poi a fare il viaggio verso la cerimonia. E questo è stato un lavoro che è stato effettivamente molto coinvolgente, perché è durato circa 6 mesi, in cui non dico quotidianamente ma quasi postavamo sul nostro videoblog 2 puntate settimanali, e quindi abbiamo avuto, insomma, una continuità, una costanza nelle riprese. Questo soprattutto per loro, immagino che da un certo punto di vista è stato, come posso dire, una grande prova di fiducia nei miei confronti, ma anche mettersi in gioco veramente completamente nella propria relazione, anche nella relazione con gli amici, con i familiari. Mm-hmm. E dal videoblog poi abbiamo fatto questo salto, riprese di una settimana in Svezia, appunto raccontando tutto l'itinerario che ci ha portato là, quindi Austria, Germania, e poi questo traghetto che da Rostock ti porta appunto sulle coste svedesi. Mm-hmm. E devo dire che è andata molto bene, anche perché abbiamo scelto di lavorare con 2 cameraman in Svezia. Il viaggio le riprese le ho fatte io, perché eravamo in macchina, ma quando siamo arrivati nel luogo dove si sarebbero arrivati sia gli amici che si sarebbe tenuta la cerimonia, lì avevamo 2 amici nostri che sono cameraman di professione, e diciamo che questo ci ha consentito di mantenere un'intimità, no, nel racconto e nella narrazione. Sì, quindi siamo stati veramente molto molto contenti di costruire un film su nostra misura, diciamo, sia affettiva che poi di linguaggio. Mm-hmm. Oh Maria, per chiudere ci lasci dei riferimenti internet per saperne di più? Molto volentieri. Il nostro sito è www.leidissesi.net, e qui potete trovare anche online il videoblog, e trovate soprattutto le date del nostro tour nelle sale in Italia. E il prostimo appuntamento è Napoli alla Stradoc. Esatto. Il 20, cioè domani, quindi siamo in partenza, e il 22 invece saremo a Pompeia in Nvidia Lounge, e siamo estremamente contenti di andare nelle zone partenopee che ancora non ci avevano visto. Bene. Presenti, e poi ci sarà a marzo, invece siamo nelle Marche, poi di nuovo in Toscana, e andiamo avanti, siamo molto veramente molto contenti di poter parlare, proiettare il film, insomma essere a disposizione nelle sale, quindi spero che vi vedremo, voi e il vostro pubblico, presto. Benissimo, allora un abbraccio e alla prossima, Maria. Grazie mille, ciao, a presto, ciao. Grazie, ciao. Maria Pecchioli, regista del documentario Lei disse sì, che sarà domani al Cinema Astra di Napoli per la rassegna Astradoc. Vi risparmierò la tribolata storia di come, per circostanze del tutto fortuite e impreviste, sono diventato gelataio e poco a poco completamente votato al mio mestiere. Io sono un uomo di pace. Potrei, chi lo sa, essere un criminale, un proscritto, in permanente ribellione contro una legge sociale cieca e aberrante. Non lo so. So che non potrei mai essere un politico, ingrossare le fila di quei malfattori che fanno e disfano il destino degli esseri umani, guidandoli verso un avvenire che li avvicina sempre più alla condizione strisciante. Sei rettile e rettile ritornerai. È la logica che incessantemente ci conduce verso il nostro vergognoso degrado. Bene, eccoci con Andrea Romeo di I Wonder Pictures sulla distribuzione del documentario Life Itself, in uscita in sala oggi, giovedì 19 febbraio. Andrea, ben ritrovato. Ben ritrovati a voi. Allora, per chi è all'ascolto, cos'è Life Itself? Life Itself è la storia di Roger Ebert, mitico critico cinematografico americano, è l'unico critico cinematografico a aver mai vinto un Pulitzer. 40 anni fa fu premiato con il più importante premio giornalistico internazionale e il documentario ripercorre la sua storia, la storia anche della sua trasmissione cinematografica, in cui assieme alla sua controparte si dividevano la possibilità di stroncare o sostenere i vari film anche molto popolari. Diciamo che Roger Ebert ha portato la critica cinematografica a parlare anche e non solo dei film d'autore, ma dei film in uscita ogni settimana, anche dei film commerciali abitualmente lontani dalla critica cinematografica. Ha precorso i tempi, ha inventato con la sua trasmissione il su e giù, il pollice verso e il pollice a favore dei film. È stato un pezzo di cultura e di televisione americana, idolatrato da tantissimi, appunto, addetti ai lavori, critici cinematografici di tutto il mondo e anche dai critici cinematografici italiani che hanno sposato il film e che lo presentano nei vari eventi che faremo in giro per l'Italia con il sindacato critici. I critici cinematografici locali saranno loro, appunto, le firme di punta dei quotidiani italiani a presentare il film al pubblico. Mm-hmm. Ci sono alcuni elementi secondo me molto interessanti del documentario. Il lato umano rispetto ad un mestiere, un personaggio difficile come quello del critico di arte in generale, dalla letteratura al teatro al cinema, e poi il fatto che all'inizio i quotidiani non erano molto interessati al cinema e quindi era un ruolo che spesso veniva rivestito da giornalisti a rotazione, e con lui invece ha assunto una dignità letteraria questo mestiere. Un altro elemento è quello dell'avvento della televisione di massa, che ha influenzato fortemente e indirizzato il pubblico rispetto alle scelte. Ma sì, la figura di Roger Ebert è come dire il cardine del film, ma il film è un film in realtà poi sulla cinefilia, sulla passione per il cinema, per gli autori cinematografici e per quella che è la scena internazionale delle eccellenze cinematografiche. Ebert ha tenuto a battesimo sostenendo giovani allora autori come Steven Spielberg o Francis Ford Coppola, e sono tantissimi i ricordi dei registi che certe volte, appunto, sono stati sostenuti e lanciati da Ebert e altre sono stati duramente stroncati dalla sua penna e dai suoi commenti televisivi. Mm-hmm. Senti Andrea, per chi ci ascolta ricordiamo anche l'avventura I Wonder Pictures. Sì, l'avventura I Wonder Pictures ha ormai quasi 2 anni e in collaborazione con la Unipol Biographing Collection, che nasce dal Biographing Festival e dalla partnership con Unipol Assicurazioni, porta sostanzialmente nelle sale italiane il meglio del documentario internazionale. Proprio in questi giorni stiamo lavorando anche all'uscita che ci sta impressionando e che ci sta stupendo del film su Lucio Dalla, che uscirà il 4 di marzo, e appunto Paradossi, mentre Roger Ebert fatica a trovare le sale cinematografiche e quindi l'appuntamento è per il Cinema Beltrade di Milano, dove sarà presentato domani, e il Cinema Adriano di Roma, dove sarà presentato lunedì 23, invece il film di Lucio Dalla non sappiamo più in quante sale sarà, perché sarà botta unica del giorno che lui stesso si è intitolato con la canzone 4 marzo del 43, e sarà appunto il 4 marzo in tante sale italiane, tutto il circuito OCI, il 5 nel circuito The Space e il 4 oltre OCI un centinaio di altre sale in giro per l'Italia. C'è moltissima attesa per questo film che ha ovviamente un link molto particolare col nostro paese, ma come sai Unipol Biographing Collection porta in Italia poi tanti film anche internazionali. Mm-hmm. Nei prossimi giorni, martedì prossimo, tornano in sala i grandi, insomma i film che più amiamo della Unipol Biography Collection per 9 settimane in collaborazione con i Cinema UCI, quindi in 23 città italiane sarà possibile rivedere tutti i nostri film, insomma quelli che noi amiamo di più, a partire da martedì prossimo con Sugarman, che torna appunto nelle sale cinematografiche dopo il successo mondiale di questa incredibile storia di Sisto Rodriguez. Senti Andrea, volevo chiederti anche, tu hai ricordato la vostra attività, quali sono i criteri rispetto alla scelta dei titoli? Ma guarda, il criterio è soprattutto uno: mi devono piacere tantissimo e quindi non ci sono tanto diciamo, vengono in secondo piano le logiche commerciali, e partiamo dal fatto che siano film che hanno veramente la possibilità e la voglia di parlare a un pubblico e di portare il pubblico italiano in storie importanti. È stato così per il Gran Premio della Giuria alla Mostra del Cinema di Venezia, The Look of Silence di Joshua Oppenheimer, secondo diciamo ritorno in Indonesia di Joshua Oppenheimer per raccontare con un'umanità sconvolgente del protagonista appunto sulle tracce dell'omicidio del fratello nel contesto del genocidio del 65. Ancora vedremo nei prossimi mesi, lo abbiamo annunciato come uno dei film più importanti del prossimo Biography Festival, dove lo presenteremo in anteprima italiana, il recente vincitore dell'Orso d'Argento a Berlino per la sceneggiatura, che è Patricio Guzman, con il suo Il bottone di Madreperla. Senti, la risposta del circuito distributivo, delle sale e del pubblico alle vostre proposte? Beh, senti, la risposta nel suo complesso è molto positiva e appunto lo stesso film su Jimi Hendrix ha affollato le sale di UCI martedì scorso, con nostra sorpresa, in lingua originale, a 3 mesi dall'uscita del settembre scorso. Stiamo proponendo cose abbastanza nuove al mercato. Devo dire che è un piacere che, oltre alle sale de sé, alle sale del centro, alle multisale, anche UCI abbia deciso di sposare questa scommessa, presentando per appunto 10 settimane un film della Unipol Biography Collection nelle sue sale, e chiaramente un po' di sofferenza per film come Preziosi, come Life Itself, che invece in questo momento ha soltanto la possibilità di essere visto a Roma il 23 al Cinema Adriano e domani al Cinema Beltrade di Milano. Ovviamente alcuni film stanno superando le nostre aspettative, anche le più rose, altri sono scommesse complesse, però siamo qui per questo. In fondo la distribuzione cinematografica nasce dall'esperienza del Biography Festival e di un'operazione del tutto culturale, e il fatto già che sia possibile farlo, che ci sia un pubblico per questi film che prima non c'era, anche grazie all'attenzione di media come questa radio, è una cosa che ci fa ovviamente molto piacere e ci incoraggia a continuare a selezionare il meglio del documentario internazionale. Bene. In chiusura, Andrea, ci lasci i riferimenti internet per saperne di più? www.biografilm.it e per i film dei titoli di I Wonder Pictures, iwonderpictures.it. Un abbraccio e alla prossima. Grazie, a presto. Ciao. Andrea Romeo di I Wonder Pictures sulla distribuzione del documentario Life Itself, in uscita in sala oggi giovedì 19 febbraio. Sai come mi sentivo? Mi sentivo come la baronessa di Tutti Insieme appassionatamente. Gli altri cantano e scalano le Alpi e io vorrei prendere quella chitarra e infilarla nel culo alla suora e... Oh. Un uomo in TV ha detto che tu, papà, sei uno che vende fumo. Ma gli ho spiegato, Jeff, che tu fai ancora l'avvocato, giusto? Questo paese è in guerra adesso. Ma pochi se ne sono accorti. È in guerra con il crimine. Dozzine di vite e milioni di dollari in beni vanno perduti ogni anno. Finora siete stati capaci di fare una cosa sola: costruire prigioni più grandi e riempirle di disgraziati. Riempita una, se ne fa un'altra. Ma i criminali aumentano ogni giorno e la situazione appare senza fine. Le cose stanno così, perciò è il vostro sistema che è sbagliato. E tu voti? Tu voti? No, io non voto, no, no. Non mi piacciono le cabine, sono claustrofobica, non resisto in uno spazio ristretto. Desidero condividere con te una geniale intuizione che ho avuto durante la mia missione qui. Mi è capitato mentre cercavo di classificare la vostra specie. Improvvisamente ho capito che voi non siete dei veri mammiferi. Tutti i mammiferi di questo pianeta distinto sviluppano un naturale equilibrio con l'ambiente circostante, cosa che voi umani non fate. Vi insediate in una zona e vi moltiplicate. Vi moltiplicate finché ogni risorsa naturale non si esaurisce. E l'unico modo in cui sapete sopravvivere è quello di spostarvi in un'altra zona ricca. Eccoci con Alessandro Giacobbe di Academy 2 sulla distribuzione del film Timbuktu, che è uscito in sala lo scorso 12 febbraio. Alessandro, benvenuto a Visionari su Radio Onda Rossa. Grazie per essere ospite vostro e un saluto a tutti gli ascoltatori. Raccontiamo a chi ci ascolta qualche elemento di trama di Timbuktu. Beh, Timbuktu è un film un po' difficile da raccontare, in quanto è senza dubbio anzitutto un film di sensazioni e un film che vuole in qualche modo farci conoscere una situazione che si è creata nel 2012, appunto nel paese di Timbuktu, nel Mali, quando fu occupata dagli jihadisti, che tentarono di imporre appunto le regole della Sharia in questo villaggio noto a tutto il mondo anche per i suoi meriti culturali e artistici. E visse appunto circa un anno di occupazione jihadista prima di essere poi liberato dalle truppe francesi. Quindi quella del regista Sissako è appunto un'opera cinematografica che cerca di coinvolgere lo spettatore nell'atmosfera e nelle sensazioni e in qualche modo nelle difficoltà che gli abitanti di Timbuktu e delle zone limitrofe subirono durante appunto questa occupazione. Lo fa però con un senso non solo di drammaticità, ma anche di grande in qualche modo di grande sensibilità e di ironia, volendo proprio toccare sulle corde del nostro sentimento, dei nostri sentimenti, su quelle che sono proprio le caratteristiche che gli abitanti di questo paese sono stati costretti in qualche modo a subire da questa occupazione. È un film anche di immagini strepitose e di anche con una colonna sonora meravigliosa che in qualche modo ci fa entrare in questa atmosfera. Ecco, hai sottolineato la musica e le immagini. Volevo chiederti, a tuo modo di vedere, quali sono gli elementi forti di questa pellicola? Ma appunto, come dicevo, credo che quello che Sissako è riuscito a trasmettere attraverso questo film è proprio il senso in qualche modo di indignazione da una parte, ma anche di umanità dall'altra, che in qualche modo gli abitanti del paese cercano di far sopravvivere nonostante l'occupazione. E noi abbiamo diversi episodi di vita quotidiana in questo paese che vengono in qualche modo brutalizzati dalla presenza dei guerriglieri jihadisti, ma al tempo stesso cerca Sissako, attraverso i personaggi, di far capire che anche nella loro perversione questi guerriglieri hanno comunque un lato umano, che è quello che bisognerebbe fare in qualche modo rinascere, proprio per sperare in qualcosa di positivo per il futuro. Quindi c'è comunque un minimo messaggio di speranza e di approccio diverso a quello che potrebbe essere invece esclusivamente una risposta di violenza. Alessandro, come avete incontrato questo film e poi come è nata la scelta della distribuzione? Ma il film era in concorso al Festival di Cannes la scorsa primavera nel 2014, dove ha vinto tra l'altro il premio della giuria ecumenica, quindi ha avuto un percorso nel festival molto insomma decisamente di successo, è stato segnalato dalla critica già appunto nel corso del festival. Noi ne siamo rimasti ovviamente folgorati e siamo stati subito pronti a intraprendere l'avventura della distribuzione in Italia, cosa che per un titolo e un film di questo tipo non è mai un'avventura senza, diciamo, senza rischi. Però ci siamo sentiti senz'altro di portare avanti l'iniziativa, e in qualche modo anche la candidatura all'Oscar come film straniero ci ha in qualche dato conferma che la scelta è stata giusta. Oh, siamo alla prima settimana di programmazione, i risultati? Ma dunque, in una settimana il film è stato visto da circa 20.000 spettatori, che è un buon esito per appunto la tipologia di film, considerato che il numero di copie in sala era abbastanza contenuto, intorno a una trentina, quindi siamo presenti nelle principali città italiane e in qualche capoluogo di provincia, quindi proporzionato appunto al numero di cinema che lo stanno programmando, direi che siamo abbastanza soddisfatti. Poi speriamo che il passaparola, in quanto il pubblico all'uscita delle sale è estremamente contento e sorpreso di questo film, possa in qualche modo portare avanti il successo anche nelle prossime settimane. Oh, per saperne di più, indicazioni internet ce ne puoi dare, Alessandro? Ma dunque, innanzitutto noi abbiamo la nostra pagina Facebook di Academy 2, che riporta quotidianamente notizie sul film, clip e anche articoli di stampa che sono stati numerosissimi in queste settimane. Direi che la critica è stata unanime, ne ha parlato in assoluto in modo molto positivo, quindi direi che questo è in qualche modo, appunto, andando sulla nostra pagina Facebook si può attingere a diverse informazioni. Abbiamo anche il nostro sito www.academy2.com, dove c'è il press book e altre informazioni sul film. Benissimo, allora un abbraccio e a risentirci per le prossime novità. Grazie mille a tutti gli ascoltatori, arrivederci. Alessandro Giacobbe di Academy 2 sulla distribuzione del film Timbuktu, uscito in sala lo scorso giovedì 12 febbraio. Era l'ultimo degli ospiti per questa puntata settimanale di Visionari. Torniamo giovedì prossimo, sempre dalle 14 alle 15. Per la scaletta e tutte le informazioni le trovate sul sito internet della radio ondarossa.info, la voce trasmissioni Visionari, sulla pagina Facebook di Visionari, mentre per comunicare con noi l'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info. Potete seguirci in diretta sugli 87.9 in modulazione di frequenza, ma anche in streaming dal sito internet della radio. Sulla homepage c'è l'opzione Ascolta la diretta.